con le barboncini. Quando cammina sembra una gazzella, quando si abbronza mai non si spella. Ha un guardaroba di mille una stanza, può assumere quasi ogni sembianza, ma non assume mai una pietanza, e se l'assume poi vomita oltranza. Vuole restare sempre perfetta, invece dei ragni e della pancetta. Zucchero a velo per essere bella, ormai è più una gruccia che una modella. La responsabilità presto è qua, non mi avevano detto che poteva diventare realtà, ma chi se ne frega, la scanserò. Tanto qua nessuno la considera mai, ed è crudele anche molto coi maschi. Ci si diverte, poi ci appasta i suoi aschi. Le hanno insegnato che è divertente strappare lacrime col viso dolente. Mette amore nei cuori come reagente, ogni cantore ne fa un balbuziente. Per lei l'amore è solo un gioco di causa ed effetto, ne capisce poco. E la responsabilità presto è qua, non mi avevano detto che poteva diventare realtà, ma chi se ne frega, la scanserò.